Dopo gli scontri armati di inizio novembre tra le forze di interposizione francesi presenti in Costa d'Avorio e le truppe governative di Gbagbo, la Farnesina ha organizzato dei voli per rimpatriare cittadini italiani. A bordo di uno di questi voli c'erano 32 cittadini israeliani il cui ruolo nell'incidente tra i francesi ed i governativi ivoriani è tutt'altro che chiaro. Il senatore Francesco Martone dei Verdi ha presentato un'interrogazione parlamentare alla Commissione Esteri del Senato. Lo abbiamo intervistato per tentare di capire quali potrebbero essere i motivi di un tale gesto di accondiscendenza dell'Italia verso Israele. Nasconde poi probabilmente anche una serie di altri interessi politico-diplomatici, come ad esempio quello da una parte di cercare di ingraziarsi la Costa d'Avorio e anche di allacciare dei rapporti politici più stretti in settore militare con Israele. Non è un caso, insomma, che ci sono una serie di passaggi. Il primo è stato la visita di Fini in Israele, il secondo è stato questo supposto episodio, il terzo è la richiesta di ratifica di un accordo sulla cooperazione per la difesa tra Italia e Israele che è arrivato in Senato proprio in questi giorni. E quindi certamente sono tutti elementi che, messo uno dentro l'altro, ci fanno pensare comunque sia un sostegno indiretto dell'Italia al governo Sharon in un momento molto delicato per la pace nel Medio Oriente. Quindi l'arrivo di Fini alla Farnesina, diciamo, è forse il culmine allora di questa strategia? Beh, dovremo vedere, insomma, certo i segnali che ci arrivano indiretti non sono incoraggianti da questo punto di vista, bisognerà vedere quanto poi sia possibile riprendere la roadmap in Medio Oriente, ma quanto soprattutto l'Italia possa giocare un ruolo di mediazione. In questo caso, certo, soprattutto questo accordo nel settore della difesa a me sembra una presa di posizione politica chiara in una congiuntura così delicata di passaggio nella regione. Ritornando all'Africa e alla Costa d'Avorio, però tutti questi giochi dimostrano come ancora le questioni coloniali e postcoloniali abbiano un ruolo predominante nella vita politica di questi paesi che cercano di uscire da situazioni di conflitto. Assolutamente, la Costa d'Avorio è un caso proprio emblematico, perché è un paese che è stato attraversato da numerosi colpi di Stato, tentativi di colpi di Stato, oggi è di fatto un paese spaccato in due, con i ribelli da una parte e il governo di Gbagbo dall'altra, e i francesi dell'Operazione Liocorn e le forze ONU che sono lì da fare la forza di interposizione. Va detto però che se la presenza militare francese è stata legittimata ex post da una risoluzione ONU, ma per mesi i francesi erano già presenti lì. La questione è interessante perché, secondo un articolo di Liberation che analizza anche le conseguenze politiche del conflitto in Costa d'Avorio, la Francia di fatto si sta giocando in Costa d'Avorio il suo ruolo di potenza, diciamo, di mediatrice e tutela nei confronti delle regioni e dei paesi francofoni dell'Africa, quindi un fallimento dell'operazione francese in Costa d'Avorio di fatto potrebbe portare poi a pioggia anche una delegittimazione della Francia nei rapporti che ha con i suoi paesi ex coloniali, e questo comporterebbe anche un forte colpo alla strategia di Chirac di farsi paladino degli interessi dell'Africa a livello internazionale. Il problema quindi ora è cercare di comprendere in effetti cosa è successo in Costa d'Avorio, avere chiarimenti anche sulle operazioni militari condotte dai francesi, e poi il problema grosso è di inquadrare il problema della Costa d'Avorio in un ambito più ampio. Da una parte capire come mai in Costa d'Avorio si sia arrivati a un livello di destabilizzazione tale, comprendere e analizzare e denunciare anche le responsabilità sia della Francia da un certo punto di vista e anche delle istituzioni finanziarie internazionali che hanno colpito il paese e l'economia con i piani di aggiustamento strutturale. Vorrei ricordare che la Costa d'Avorio è uno dei principali produttori al mondo di cacao e certamente fa molto gola quel mercato alle imprese multinazionali del settore del cacao. In Costa d'Avorio c'è molto lavoro minorile proprio nelle piantagioni di cacao. C'è poi un problema macro regionale, quello delle guerre che mai sono finite in effetti. Io sono stato in Sierra Leone qualche giorno fa, Sierra Leone che è stata attraversata da un conflitto durissimo tra il governo e i paramilitari del RUF, alimentato anche dal commercio illegale di armi e di diamanti. Molti di questi paramilitari del RUF, a quanto ci viene detto, si sono spostati ora a fare guerra in Costa d'Avorio. Il problema è anche in Liberia la pacificazione è tutt'altro che vicina. In Guinea Conakry, con la morte del vecchio presidente, si aprirà, quando morirà, comunque si aprirà un processo di grande instabilità politica. Quindi la Francia lì ha bisogno di mantenere un piede fermo, anche perché gli Stati Uniti dal loro canto stanno cercando di consolidare il loro posizionamento strategico in quella zona, che è una zona importante anche per i giacimenti petroliferi. Gli Stati Uniti, con il pretesto della lotta al terrorismo salafita soprattutto, hanno aperto delle operazioni militari, ma anche di collaborazione militare con il Mali, Mauritania e Niger, sono interessate anche alla zona del Golfo di Guinea. Quindi ci troviamo oggi di fronte, come vecchi tempi, a un conflitto esternalizzato in zone importanti dal punto di vista strategico, ma ancora molto instabili dal punto di vista politico, e nei quali quindi politiche che hanno un po' il sapore, come dicevi giustamente, postcoloniale, non fanno altro che aggravare la tensione.